Effetto Mondo. But elections have consequences, and this one was clearly won by President-elect Biden by the same margin in the Electoral College that President Trump won 4 years ago, and by even more, nearly double the popular vote. Allora Giulia, io ho capito bene President elect Biden e poi Trump, poi non ho capito molto altro, aiutaci. Chris Christie, che è un signore molto simpatico, è stato governatore del New Jersey. C'è un problema con l'audio di Giulia, vediamo se lo risolviamo. Ora sentite. Sentiamo molto poco oggi, come mai? Microfono giusto, eccola, eccoci. Eccola qua, è arrivata. Invece non c'era problema con l'audio di Chris Christie, governatore del New Jersey, stato che confina con lo stato di New York dal 2010 al 2018, è diventato famoso per tanti motivi, tra i quali essere un repubblicano di ferro, grande alleato di Donald Trump, per dirvi, gli aveva fatto il training per il primo faccia a faccia con Joe Biden. Però famoso anche per aver collaborato per esempio con l'allora presidente Obama quando l'uragano Sandy colpì tutta quella zona degli Stati Uniti e ci volle una grande cooperazione tra governo federale e stati. E in questo audio dice: perdere le elezioni non è mai bello, però le elezioni hanno delle conseguenze, e in questo caso il popular vote, gli electoral vote hanno dato con lo stesso margine la vittoria a Joe Biden, con lo stesso margine con la quale aveva vinto Donald Trump 4 anni fa. Il voto popolare è addirittura un margine doppio, quindi Donald a questo punto fa le congratulazioni a Joe Biden. Questo tema naturalmente ricorre sui giornali, perché siano tutti un po' in attesa che Donald Trump si faccia questo passo. L'altra notizia, ne abbiamo parlato ieri, è passato questo pacchetto, ne parla il Wall Street Journal, di aiuti, 900 sì. miliardi, però esattamente come dicevamo ieri, i democratici hanno fatto parecchi compromessi. Abbiamo appena detto cooperazione in uno Stato federale tra governo federale e stati, in questo pacchetto non sono compresi, e questa è una vittoria dei repubblicani, gli aiuti diretti agli stati, perché negli Stati Uniti davvero esiste ancora quella che noi chiamiamo destra e sinistra, e in generale i repubblicani sono contrari, per esempio quando uno Stato non riesce ad avere un bilancio in pari, sono contrari a un intervento diretto dello Stato centrale. Qui impazzirebbero probabilmente, però questo per esempio non è incluso nel pacchetto, come dicevamo ieri, se poi in gennaio potrebbe essere che arrivasse un pacchetto molto diverso che includa queste misure e altre richieste dei democratici. E poi questa è una cosa che personalmente mi emoziona, voi direte cosa c'entri tu, non sei americana, non lo so, però la trovo veramente quelle scelte che fanno la differenza. Che Joe cosa? Biden ieri ormai mancano poche caselle, ha riempito la casella del Department delle Risorse Naturali, ha scelto una donna di 60 anni attualmente al congresso per rappresentare il New Mexico, si chiama Deb Haaland, è una nativa americana originaria del New Mexico, per la precisione della tribù della Laguna. È veramente importante, è la prima volta che una nativa americana fa parte di un'amministrazione. Io sono andata a guardarmi un po' di dati, in effetti oggi i nativi americani, tra l'altro anche solo per diciamo un genitore, sono circa 5 milioni, cioè circa l'1,5% della non popolazione, pochissimo, eh? Non detto pochissimo, meno, detto. Però se ci pensi neanche tanto, sì. E darle una, un incarico così importante, questo è un department, cioè un ministero che ha circa 70.000 dipendenti ed è responsabile di tutte le risorse e dei parchi naturali, dove vivono il 70% degli nativi americani, nelle riserve. È veramente una nomina che innanzitutto avrà molta influenza, e poi è una sorta di risarcimento molto tardivo a quello che è stato a tutti gli effetti un genocidio, che è quello dei nativi americani. È un tema tra l'altro che i repubblicani avevano molto schivato, primo perché Donald Trump aveva autorizzato una serie di trivellazioni in luoghi sacri dei nativi americani, e poi anche perché un deputato repubblicano era diventato abbastanza famoso per aver apostrofato una nativa americana in New Mexico dicendole: tornatene a casa tua. capite che c'è del paradossale in una frase del genere, però fa capire come Joe Biden voglia continuare a dare questa impressione di svolta di amministrazione che guarda veramente alle minoranze, ripeto, 1,5% della popolazione americana. Ci sono notizie verso l'approvazione del vaccino anche Moderna negli Stati Uniti, c'è qualcosa sulla stampa? Sì, Wall Street Journal proprio di spalla, di fianco alla foto di Putin, perché ha fatto molto effetto questa conferenza stampa di Putin, dove l'avrete sentito, lui ha detto: ma io non possiamo essere stati noi a provare a uccidere Navalny, testuale, certo. Perché se ci avessimo provato ci saremmo riusciti, quindi insomma un Putin senza freni. Di fianco alla sua foto scattata da questa videoconferenza da casa sua col messaggio di fine anno, c'è la notizia: Moderna COVID-19 vaccine endorsed by panel, cioè ormai siamo a un passo, perché ha avuto questo endorsement da parte di molti scienziati, quindi siamo a un passo dall'approvazione anche di questo vaccino. E a proposito di questo, se vuoi sentiamo le parole di Joe Biden, perché ha fatto una lunga intervista dove ha detto, gli viene chiesto: ma c'è qualcosa per la quale vuole ringraziare Donald Trump? E lui dice molto chiaramente sì, per il suo sforzo nella corsa al vaccino. Sentiamolo. The answer is there are some things. I think what he's done getting the vaccine moving has been positive, but by and large he has been a president who's decided that the way he succeeds is by dividing us. E questo poi aggiunge con molta calma, dice: questo gli diamo credito, però by and large, cioè che è l'equivalente in inglese di nella maggior parte delle situazioni, Donald Trump ha cercato di identificato il successo della sua amministrazione con la divisione tra fazioni o tra opinioni diverse, e lui naturalmente poi dice: io cercherò di fare esattamente l'opposto. È interessante questo modo in cui, diciamo, i due approcci, Biden che cerca di unire e l'altro che cerca di dividere, sono due strategie politiche, intendiamoci, non è che una necessariamente, dal mio punto di vista, io preferisco quella di Biden, però insomma, sono strategie a confronto interessanti. Ora io continuo a pensare a quelle parole di Le Carré, no? Che diceva la differenza tra patriottismo e nazionalismo. Sì. Patriottismo è amare la tua patria, ma essere capace di criticare quando vedi dei difetti. Il nazionalismo invece è cercare un nemico. Il rischio di Biden è quello di apparire talmente, di voler mettere d'accordo tutti, che poi non sai esattamente cosa vuole lui, no? Mentre di Trump lo sai che cosa vuole, puoi non essere d'accordo, però certo, lo sai. E il tema grande qui è la Cina, perché tutti lo stanno proprio pressando, oltre che sulla questione medio orientale, che cosa farà con la Cina. Financial Times oggi titola che Bruxelles e le delegazioni di Bruxelles, degli Sherpa di Bruxelles cinesi, stanno lavorando ad accordi commerciali, e intanto la Cina sta celebrando il suo successo con questo ritorno dalla Luna lunare, di questa materia, e su tutti i giornali cinesi oggi il Global Times, che però subito sotto, e ne parlano anche altri giornali, dalla notizia che l'OMS, forse era ora, ha deciso di inviare un team di investigatori internazionali per capire, in gennaio però, credo che avendoli avvertiti con tanto preavviso possano anche predisporre, nascondere le prove, se mai ce ne fossero, che non volevano far vedere, dell'origine, per capire veramente a Wuhan andrà questo team, per capire se davvero quello è stato il luogo dell'origine del Covid-19. Mi incuriosisce Giulia questa polemica in Inghilterra, in Gran Bretagna, sul ruolo dell'UNICEF a Londra, una polemica sollevata da un parlamentare, se ho capito bene, vicino a Johnson. Sì, come sapete, insomma, Londra è una metropoli, e come accade in quasi tutte le metropoli, in periferia ci sono sacche di povertà che è difficile immaginare, è un po' come nelle banlieue parigine, e quindi l'UNICEF ha deciso, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si incarica di aiutare l'infanzia in difficoltà indipendentemente dal paese, di portare molti pasti ai bambini delle famiglie più povere, che, come abbiamo detto più volte, non avendo neanche la scuola, non potendo andare a scuola dove possono avere un pasto caldo garantito, sono in difficoltà. E in Parlamento Jacob Rees-Mogg, che è molto vicino a Boris Johnson e anche il leader nella House of Commons, ha apostrofato l'UNICEF con epiteti anche, insomma, molto molto pesanti, come dire: ma come vi permettete chiedete di qualificare come bisognosi di cibo dei bambini che vivono a Londra, però purtroppo è così. E abbiamo, ricorderete anche la vicenda del giocatore britannico che aveva cercato di raccogliere fondi per appunto garantire dei pasti a chi già era in difficoltà prima della chiusura delle scuole e ancora di più adesso. Quindi è, insomma, è un tema doloroso, uno dei tanti effetti collaterali dell'emergenza economica. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, ci sentiamo lunedì prossimo naturalmente, oggi con Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizi. Buona giornata, buon fine settimana, ciao.